Friuli nel mondo. L'anima popolare friulana nei canti d'amore. 50ª trasmissione dedicata agli emigrati. Tra gli scrittori, e non sono pochi, cui le bellezze naturali del Friuli e la fiera e al tempo stesso delicata anima della sua gente hanno suggerito pagine limpide ed ispirate, va ricordato uno dei maggiori poeti italiani, Gabriele D'Annunzio. Vissuto nel suo Abruzzo, a contatto con gli uomini semplici dei campi, egli era particolarmente idoneo a comprendere l'anima popolare friulana attraverso i suoi canti, e scrisse queste stupende parole ad esaltazione della villotta. L'anima del Friuli grida all'improvviso nella sera che si costella. Oh su, se il mondo si strugge, qualchidun lo dretterà. La giustizia hai fatta a buche, non si può lui sopportà. E l'antica villotta friulana, breve come il dardo e come il fiore, breve come il bacio e come il morso, come il singhiozzo e come il sorriso. E la villotta cruda, gettata al destino avverso da una voce maschia misurata dai colpi del martello sull'incudine. A morì pazienze, in quest mond novin di sta, ma è dure la sentenze, non sapè tu là si va. La quartina finale citata da D'Annunzio è la conclusiva di quell'antichissima accorata villotta nata anonima dal sospiro del popolo, ma degna di recare la firma d'un grande poeta. Se savessis fantazzinis. Se savessis fantazzinis, c'è che son pinsir d'amor. Assimù si va sottiare e ancimossi sin dolor. Sclope curs, passions penosi, stanta i curs innamorati. E a vaino dove nuie, ne a morì da disperare. È questa una villotta d'amore, ma tutte d'amore saranno le villotte che udrete oggi e che, come in altre precedenti trasmissioni, abbiamo raccolto una piccola antologia radiofonica che intende sottolineare un aspetto dei più caratteristici dell'anima popolare friulana. I canti amorosi del Friuli, tutti espressi con quel componimento che va sotto il nome di villotta e che è unico al mondo, sono per la varietà dei loro temi fra i più alti di tutto il folklore italiano. Varietà di temi, abbiamo detto. E dopo la tristezza di Si savessis fantazzinis, ecco dunque una villotta lieta, serena. Un canto che pur dopo il rifiuto esprime la speranza. L'hai domandade di sabide. L'hai domandade di sabide se ul fa l'amor con me. E avut cur di rispindimi, non ho la fe. Ma pur in fond dall'anime speri un edia in chimò che bevi di rispuindimi, sì, o soi to. Sul Ma dove la donna si rivela del tutto categorica nel rifiuto del corteggiatore è nella villotta Giovani in color di rose. La sua reazione al giovane, che la saluta con un appellativo che certo gli sta a cuore, morose, è secca, decisa. No, assolutamente no. Un altro momento dunque del cuore, la repulsa, che se può spiacere all'altra parte è però una presa di posizione netta, un mettersi al sicuro con la propria coscienza. Giovanin in color di rose le passat par chi cumò. Lui mi ha dit, mandi morose. Io gli ai dit, ma la penò. Sentimento ricco di luci ed ombre, l'amore. E la villotta, nel suo breve metro di appena 8 sillabe, dell'amore ha saputo accogliere con un'immediatezza tanto più sorprendente quanto più è difficile l'espressione concisa di un moto del cuore, i momenti di incanto e di stizza, di delicatezza e di ironia, di estasi e di malinconia. Non c'è atteggiamento di questo dolce tiranno, come lo chiamavano i classici, che l'anima popolare friulana non abbia tradotto in canto. Ascoltate ad esempio quanta tenerezza, quale lievità d'accenti, che soavità fatta di parole semplici in questa notissima Sdrindulaide. Sdrindulaide che bambinute, che si torni a indurmidì. Io gli evade la biele stele, son tre oris de vandì.